Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da giugno a luglio del 1849. Buona giornata da Simone Spezia, una nuova edizione speciale del Gazzettino del Risorgimento la dedichiamo all'assalto francese a Roma che si è concluso con un successo. La Repubblica Romana è finita, Garibaldi, Mazzini e l'eroe popolare Ciceruacchio sono fuggiti dalla città. Quest'ultimo però è stato catturato dagli austriaci e fucilato a Porto Tolle insieme al figlio di appena 13 anni e ad altri patrioti. Da oltre un mese dunque Roma è stata conquistata dai francesi. Ci colleghiamo con Paolo Piacenza che si trova là per avere un racconto dei fatti e della situazione. Paolo. Buongiorno Simone, qui a Roma dal giorno 4 luglio la città ha un padrone straniero, il generale francese Oudinot, che a differenza dei suoi predecessori napoleonici sta governandola per conto di Pio IX, che però pare non tornerà a breve. I francesi hanno preso Roma con le bombe e con l'inganno, in spregio alle promesse di sostegno ai romani e alla stessa Costituzione della Repubblica Francese che vieta le guerre di aggressione ai legittimi autogoverni del popolo. L'attacco dei francesi è cominciato a poche ore dalla tregua siglata dal plenipotenziario. Lesseps, forte di 30.000 uomini e di 75 canoni, fatigli arrivare da Luigi Napoleone Bonaparte proprio durante il periodo di tregua e di trattative tra la Francia e il triunvirato romano, Oudinot ha annunciato l'inizio delle ostilità il 4 giugno, ma ha attaccato il giorno prima, il 3. L'attacco si è rivolto verso il Gianicolo, che però i francesi hanno preso solo parzialmente. Intanto i cannoni hanno bombardato incessantemente. A Roma in quei giorni in tantissimi si sono prodigati per la difesa. La principessa di Belgioioso, ancora lei, Cristina Trivulzio, è stata l'organizzatrice della rete ospedaliera di assistenza ai feriti, che sono stati tanti, come del resto i morti, anche tra la popolazione civile. Il 20 giugno i francesi hanno passato il Tevere a Ponte Milvio, nonostante l'eroismo del battaglione universitario romano, ma hanno dovuto continuare a bombardare per altri 6 giorni, fino al 26, quando è stato comandato un nuovo assalto alla villa del Vascello sul Gianicolo, un assalto respinto dai volontari. Il Vascello è stato preso con gli altri capisaldi fuori dalle mura aureliane il 30 giugno, nonostante gli sforzi del generale Garibaldi. Il 1 luglio c'è stata una tregua per raccogliere morti e feriti e si è discusso a lungo a Roma tra i difensori su cosa fare. Alla fine si è ottenuto dai francesi l'uscita dei combattenti dalla città. Garibaldi ha convocato i volontari per continuare la lotta fuori Roma e vale la pena di ricordare le sue parole pronunciate in piazza San Pietro il 2 luglio. Soldati, che meco divideste sino ad ora le fatiche e i perigli delle patrie battaglie! Che ricca dote di gloria e onore otteneste! Voi tutti, che ormeco eleggeste l'esilio! Ecco ciò che dovrete attendervi! Il caldo e la sete di giorno, il freddo e la fame di notte! Per voi non vi è altra mercede che fatica e perigli! Non tetto, non riposo, ma miseria assoluta! Veglie strapazzone, marce eccessive, combattimenti ad ogni passo. Chi ama l'Italia, mi segua. Lo hanno seguito in 4.000 lungo l'Umbria e la Val di Chiana. Ora pare si voglia rifugiare con i pochi superstiti a San Marino per sfuggire all'armata austriaca del feldmaresciallo D'Aspre. A Roma i francesi sono entrati il 4 luglio dopo che l'assemblea costituente aveva deciso per una resa senza scioglimento, restando in seduta permanente fino all'irruzione dei francesi, accolta con una protesta votata all'unanimità. Mazzini, che si era dimesso con Saffi Armellini per non incontrare Oudinot, si è fatto vedere in città per una settimana pubblicamente. Nessuno lo ha arrestato e lui è partito. E da Roma è davvero tutto. Ed è tutto, grazie a Paolo Piacenza, inviato a Roma. Scriveteci a gazzettinoetradio24.it, visitate il blog, la pagina Facebook, scaricate il nostro foglio quotidiano. Buona giornata.